Ecco, io credo che proprio invece bisogna stare attenti di non fare la caccia alle streghe. Io in un mio recente libro faccio il parallelismo con la peste del Manzoni. A lungo si negò la peste, i medici di allora, nessuno voleva riconoscere che c'era la peste. Quando poi non si poté più negare, la si riconobbe, incominciò la caccia agli untori. Io credo che siamo un po' in quella fase lì e noi dobbiamo evitare la caccia agli untori perché sarebbe pericolosa. Allora chi opera, specula, sono centinaia, migliaia di operatori di mercato che hanno un compito: produrre un utile differenziale sui fondi che gli sono stati dati in gestione. E quando loro vedono una rottura del sistema, quando loro vedono un punto debole, loro attaccano con gli strumenti della speculazione, vendendo allo scoperto, eccetera, per trarre un utile differenziale da quella debolezza. Quindi questo è il volto di chi opera, migliaia e migliaia di operatori che hanno un mandato, questo compito e null'altro. Non sempre questo è negativo. Io vorrei ricordare quando nel 92 il governo Amato fece una manovrina finanziaria da quattro soldi e i mercati, cioè questi operatori, allora era in primo piano Soros soprattutto, anche adesso, fecero una grande operazione contro la lira e questa fu utile per la lira, perché fu allora che si innestò la consapevolezza che era necessaria una manovra molto dura, come fece Amato, quella dei famosi 100.000 miliardi, certo. E fece ragionare i sindacati, e fecero quei ottimi accordi che hanno rimesso l'Italia in carreggiata.